Questo pianeta birichino, voglio pensarla a modo mio, ma per non essere buono e finto come voi, dovrei uccidere tutti i miei eroi. E non voglio restar solo, che fondamentalmente poi m'annoio. Il fuoco è bello sì, ma brucia mia vergine, baby, fiducia. La mia generazione ha un trucco buono, critica tutti per non criticar nessuno e fa rivoluzioni che non fanno male, così che poi non cambi mai. Essere innocuo insomma, che se no è volgare. Puoi giudicare come sono se vuoi, ma lo sai. Non voglio essere solo, che fondamentalmente poi m'annoio. Il fuoco è bello sì, ma brucia mia vergine, baby, fiducia. Pensarla a modo mio, ma l'oro è il solo sentimento stabile. Non mi pensavo sai così sensibile. Non voglio essere solo, che fondamentalmente poi m'annoio. Il fuoco è bello sì, ma brucia mia vergine, baby, fiducia.